protocollo sostanzialmente stabilisce tre cose sostanzialmente importanti. La prima questione riguarda il fatto che i lavoratori verranno assunti con contratti nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, quindi si esclude qualsiasi contratto pirata o altre cose di questo genere. Secondo, vengono garantiti la tutela dell'occupazione sia sugli appalti, dove si dice che si applicherà il protocollo appalti del comune di Bologna, che prevede la clausola sociale in caso di cambi d'appalto. Terza cosa, si prevede che nel caso che i vari stand cessano attività o ci siano dei cambi degli stand, anche lì ci sono forme di tutela occupazionale che noi assieme a FICO dobbiamo provare a garantire. Quindi è un ragionamento che riguarda sostanzialmente, oltre che l'occupazione regolare, anche una gestione sindacale per la tutela dell'occupazione. E in questi settori sono tutte aziende molto piccole, di solito vengono garantiti diritti sindacali, diritti di assemblea e la nostra presenza all'interno del parco. Il protocollo vale per tutti i lavoratori che opereranno all'interno di FICO? A questo punto il protocollo vale per tutti i lavoratori che opereranno nel parco, per cui c'è stato garantito non solo per gli operatori dipendenti di Italy, ma anche per tutti i lavoratori presenti nel parco. Tu prima parlavi dei contratti, appunto di seguire quello nazionale, e invece sulle tipologie di contratto, cioè a termine, a tempo indeterminato, così, c'è qualche orientamento? Ma l'orientamento è per tranne i casi previsti dai contratti nazionali, ovviamente l'orientamento è per cercare di garantire la stabilità occupazionale da parte dei lavoratori. La Regione Emilia-Romagna ha finanziato con 400.000 euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo e inseriti all'interno del Patto per il Lavoro la formazione a FICO. Il Patto per il Lavoro prevede poi dei vincoli per l'assunzione del personale a chi ha beneficiato di questi fondi per la formazione? No, noi su questo abbiamo fatto un accordo a latere su questo tema, dove abbiamo scritto che questo sarà il bacino di reclutamento per le aziende all'interno di FICO. Tant'è vero che su un centinaio di lavoratori che hanno fatto il corso, già una sessantina sono già stati assunti, quindi è stata fatta una formazione inerente ai, diciamo così, alle professionalità che servono nel parco, dove ovviamente non c'è un automatismo di assunzione per quei lavoratori, ma si dice che c'è diciamo così un bacino di reclutamento da parte dell'azienda rispetto a questa formazione. Dalle informazioni che ho alla scorsa settimana, quindi non sono aggiornate, io so già che 60 lavoratori su 100 sono già stati assunti.